Capitolo 6. La pietra dello scandalo. Scusi, signora, potrei dirle una parola? Si tratta di qualcosa di molto importante, disse Nat facendo capolino nella stanza di mamma Baer. Era la quinta testa che spuntava nell'ultima mezz'ora, ma Jo c'era abituata, quindi alzò gli occhi e disse allegramente: Che c'è, figliolo mio? Nat entrò, chiuse guardingo la porta e disse in un tono che tradiva una grande ansietà: È arrivato Dan. E chi è Dan? È un ragazzo che ho conosciuto quando suonavo il violino per le strade. Vendeva i giornali ed è sempre stato buono con me. L'altro giorno l'ho incontrato in città e gli ho detto com'era bello qui e lui è venuto. Ma, caro figliolo, questo si chiama fare una visita assai inattesa. Ma non si tratta di una visita, lui vorrebbe restare se glielo permettono, disse Nat ingenuamente. Beh, ma io non ne so ancora nulla, cominciò mamma Baer sbalordita dalla disinvoltura di quella proposta. Ma io credevo che le facesse piacere che i ragazzi poveri venissero qui ed essere buona con loro come è stata con me, disse Nat sorpreso e allarmato. È vero, ma prima desidero sapere qualche cosa sul conto loro. Sono costretta a fare una scelta perché ce ne sono tanti e io non ho posto per tutti. Magari lo avessi. Io gli ho detto di venire perché credevo che le facesse piacere, ma se non c'è posto andrà via di nuovo, disse Nat tristemente. Commossa dalla fiducia del ragazzo nella sua ospitalità, mamma Baer non ebbe cuore di deludere la sua speranza, rovinandogli quell'affettuoso progetto. Disse quindi: Parlami di questo Dan. Io so soltanto che non ha nessuno al mondo, che è povero e che è stato buono con me, e allora anch'io vorrei essere buono con lui se potessi. Tutte eccellenti ragioni, ma vedi, Nat, la casa è piena. Non so davvero dove potrei cacciarlo, disse mamma Baer, sempre più disposta a dimostrarsi quel provvido asilo che gli sembrava crederla. Potrei dargli il mio letto e io dormire nel capannone. Adesso non è freddo e poi a me non fa nulla. Ero abituato col babbo a dormire in qualunque posto, si affrettò a proporre Nat. C'era qualcosa nelle sue parole e sul suo volto che indusse mamma Jo a posargli una mano sulla spalla dicendo col suo tono più affettuoso: Fa venire pure il tuo amico Nat, credo che gli faremo posto senza che tu debba cedergli il tuo. Il fanciullo corse via tutto felice e tornò ben presto seguito da un ragazzo di aspetto tutt'altro che simpatico, che si avanzò sguaiatamente e poi rimase ritto guardandosi attorno con piglio trasfacciato e torvo, tanto che mamma Baer pensò subito: Ho paura che sia un gran brutto tipo. Ecco Dan, disse Nat presentandolo con l'aria d'esser sicuro che sarebbe ben accetto. Nat mi ha detto che ti piacerebbe venire a star qui con noi, cominciò mamma Jo in tono amichevole. Sì, fu la risposta arcigna. Non hai nessun amico che si prenda cura di te? No. Di no, signora, gli mormorò Nat. Nemmeno per sogno, borbottò Dan. Quanti anni hai? Quasi 14. Ne dimostri di più? Che cosa sai fare? Un po' di tutto. Se resterai qui bisognerà che tu faccia quello che fanno gli altri, lavorare e studiare, ma anche giocare. Sei d'accordo su questo? Posso provare. Bene, allora resta pure qualche giorno e vedremo se ci riuscirà di andare d'accordo. Conducilo fuori, Nat, e fallo divertire finché non torni papà Baer, e allora decideremo. Disse mamma Jo, che trovava assai difficile intendersi con quel ragazzo così freddo, che la fissava coi suoi grandi occhi neri dall'espressione dura, sospettosa, cupa, strana in un fanciullo. Andiamo, Nat, disse uscendo con la stessa andatura sguaiata. Grazie, signora, aggiunse Nat, seguendolo, vagamente conscio della differenza fra l'accoglienza fatta a lui e quella fatta al suo sgarbato amico. I ragazzi giocano al circo nel capannone. Vuoi venire a vedere? Chiese mentre scendevano sul prato. Sono ragazzi grandi? No, quelli grandi sono andati a pescare. Avanti allora, marsci! Nat lo condusse nel vasto capannone e lo presentò ai suoi amici che stavano giocando nel locale mezzo vuoto. Sul pavimento era stato segnato un gran circolo col fieno, in mezzo al quale stava Demi, armato di una lunga frusta, mentre Tommy, a cavallo del pazientissimo Toby, saltava tutt'attorno fingendo di essere una scimmia. Dovete pagare uno spillo a testa se volete assistere allo spettacolo. disse Staffi in piedi accanto alla carriola nella quale sedeva la banda, formata da Ned che soffiava sopra un pettine e da Rob che batteva freneticamente sopra un piccolo tamburo. E insieme con me pagherò io per tutti e due, disse Nat generosamente piantando due spilli storti in un fungo secco che serviva da cassa. Fatto un cenno di saluto alla compagnia, si sedettero su due assi e la rappresentazione continuò. Dopo il numero della scimmia, Ned dette una bella prova della sua agilità saltando una vecchia sedia e correndo su e giù per una scala a pioli, come fanno i marinai. Poi fu la volta di Demi che ballò una giga con gravità ammirabile e di Nat che, sfidato da Staffi, lo stese subito a terra. Dopodiché Tommy si avanzò tutto fiero per eseguire un salto mortale, abilità che aveva conquistata con penosa perseveranza, esercitandosi in segreto fino a non avere più un pollice di pelle senza un livido. La sua impresa fu accolta con grandi applausi ed egli stava per ritirarsi, tutto rosso d'orgoglio e di sangue alla testa, quando si udì fra gli spettatori una voce canzonatoria. Ah, bella roba! Ripetilo un po', e Tommy si drizzò come un galletto infuriato. Vuoi fare a pugni? Disse Dan scendendo subito dal barile su cui si era inerpicato e mettendosi in posa per la lotta. No, non voglio. E il candido Tommy fece un passo indietro, assai stupito della proposta. Donnette, che non siete altro, fece Dan in tono di scherno. Via, se non sai comportarti bene, non potrà restare qui, disse Nat, prendendo fuoco a sentire insultare i suoi amici. Vorrei vedere se sa fare meglio di me, ecco tutto, osservò Tommy dandosi delle arie. Allora svelti, sgombrate. E senza la minima preparazione, Dan fece tre salti mortali uno dopo l'altro e ricadde in piedi. Tu non ce la puoi, Tom, tu picchi sempre la testa e caschi lungo e disteso, disse Nat, contento del successo del suo amico. Ma prima che avesse avuto tempo di aggiungere altro, gli spettatori furono elettrizzati da altri tre salti mortali all'indietro e da una breve passeggiata sulle mani con la testa in giù e i piedi in alto, il che minacciò di far crollare il tetto per l'entusiasmo. E anche Tommy si unì alle grida di ammirazione che salutavano il perfetto ginnasta, mentre si rialzava guardandoli con aria di calma superiorità. Credi che potrei imparare anch'io senza farmi troppo male? Chiese umilmente Tommy, strusciandosi i gomiti che gli dolevano ancora dopo l'ultimo tentativo. Che mi darai se ti insegno? Chiese Dan. Il mio temperino ha cinque lame e una sola è rotta. Dallo qui. Tommy glielo porse con un ultimo sguardo d'affetto al legno levigato. Dan lo esaminò con cura, poi mettendoselo in tasca si allontanò dicendo con una strizzatina d'occhi: Continua a provare finché non hai imparato, ecco tutto. L'urlo di rabbia di Tommy fu seguito da un tumulto generale che si calmò solo quando Dan, trovandosi in minoranza, propose di giocarsi il temperino al lancio e che il vincitore se lo tenesse. Tommy accettò. E la gara si svolse in mezzo a un cerchio di visi eccitati, sui quali si dipinse una viva soddisfazione quando Tommy vinse e nascose gelosamente il suo tesoro in fondo alla tasca più sicura. Ora vieni via con me, ti farò vedere il resto, disse Nat, trovando opportuno avere una conversazione seria a quattro occhi col suo amico. Nessuno seppe mai che cosa accadde fra loro, ma quando i due ricomparvero, Dan si dimostrò assai più rispettoso verso tutti, sebbene ancora volgare nel linguaggio e rozzo di modi. Ma che altro ci si poteva aspettare da un povero figliolo sbattuto per il mondo durante la sua breve vita, senza che nessuno gli avesse insegnato delle maniere migliori? I ragazzi avevano deciso che non era simpatico, quindi lo lasciarono a Nat, che si sentì ben presto oppresso da tanta responsabilità, senza peraltro trovare il coraggio, buono com'era, di abbandonarlo. Tommy però aveva l'impressione che, nonostante la faccenda del temperino, ci fosse fra loro una certa corrente di simpatia. E si struggeva di ritornare sull'interessante argomento dei salti mortali. Presto se ne presentò l'opportunità, perché Dan, vedendo la sua ammirazione, divenne più amabile e alla fine della prima settimana aveva stretta una certa intimità col vivacissimo Tom. Papa Bear, quando fu messo al corrente della cosa e vide Dan, scosse la testa, ma si limitò a dire con calma: È un esperimento che può costarci qualcosa, ma lo tenteremo. Anche se Dan sentiva gratitudine per la protezione accordatagli, non la dimostrava certo, accettando senza ringraziare tutto quanto gli veniva dato. Era ignorante, ma svelto nell'apprendere purché lo volesse. Aveva occhi acuti per osservare quanto accadeva attorno a lui, proprio pronto di lingua, rozzo di modi, ora violento, ora cupo. Appassionato del gioco, era abilissimo in quasi tutti. Silenzioso e scontroso dinanzi agli adulti, anche coi ragazzi si dimostrava socievole solo a sbalzi. Godeva poche simpatie, ma quasi tutti ammiravano il suo coraggio e la sua forza, perché nulla lo intimidiva. E una volta buttò a terra Franz, lungo com'era, con una facilità che persuase gli altri a tenersi a rispettosa distanza dai suoi pugni. Papà Baer lo osservava senza parere e faceva del suo meglio per domare il ragazzo selvaggio, come lo chiamavano, ma l'ottimo uomo, quando era solo con sua moglie, scuoteva la testa dicendo: «Ah, voglio sperare che questo esperimento riesca bene, ma comincio a temere che possa costarci troppo caro». Mamma Jo ci perdeva la pazienza una mezza dozzina di volte al giorno. Pure non si scoraggiava, persuasa che nonostante tutto ci fosse in lui qualche cosa di buono, perché era più affettuoso con gli animali che con gli uomini, e gli piaceva andare vagando per i boschi, e soprattutto perché il piccolo Teddy gli voleva un gran bene. Per chissà quale misteriosa ragione, il piccino gli si era subito affezionato. Ciangottava tutto contento quando lo vedeva e preferiva montare a cavalluccio sulle sue forti spalle che su quelle di ogni altro, e di sua iniziativa lo chiamava Danny mio. Teddy era l'unica creatura alla quale Danny mostrasse un certo affetto, che però si manifestava solo quando credeva che nessuno potesse notarlo. Ma gli occhi delle mamme sono acuti e i loro cuori sentono istintivamente chi è che ama i loro piccini. Mamma Jo si accorse presto che c'era un lato vulnerabile nella corazza di Dan e aspettò l'occasione buona per conquistare il ragazzo. Ma un fatto inatteso e addirittura allarmante mandò all'aria tutti i suoi piani, determinando il bando di Dan da Plumfield. Tommy, Nat ed Amy avevano cominciato a prendere Dan sotto la loro protezione, perché gli altri pareva lo disprezzassero, ma presto sentirono che c'era un certo fascino in quel cattivo ragazzo, e dal guardarlo dall'alto in basso passarono a guardarlo con interesse, ognuno per un diverso motivo. Tommy ammirava la sua abilità e il suo coraggio, Nat gli era grato per la bontà dimostratagli in passato, ed Amy lo considerava come una specie di libro di racconti animato, perché quando era in vena sapeva narrare le sue avventure in modo molto interessante. Egli era contento di questa simpatia dei suoi tre favoriti e faceva di tutto per rendersi sempre più gradito, il che era il segreto del suo successo. I Baer ne erano sorpresi, ma speravano che i tre fanciulli avrebbero una buona influenza su Dan e stavano in attesa, un poco ansiosi, augurandosi che non ne venisse fuori niente di male. Dan, che sentiva la loro sfiducia, non mostrava mai il suo lato migliore, ma prendeva un continuo piacere nel metterne alla prova la pazienza, deludendone le speranze, fin dove osava. Papà Baer era contrario al pugilato e non gli pareva una prova di virilità e di coraggio per due individui prendersi a pugni allo scopo di divertire gli altri. Incoraggiava però ogni specie di giochi ed esercizi faticosi, avvezzando i ragazzi a cascare e a farsi male senza piagnucolare, ma proibiva come cosa stupida e brutale il piacere di vedere un occhio pesto o un naso sanguinante. Dan rideva di quelle idee e raccontava episodi così eccitanti del suo valore e delle zuffe a cui aveva partecipato che alcuni dei ragazzi bruciavano dalla voglia di avere una volta un vero pugilato secondo tutte le regole. «Non dite nulla e io vi insegnerò», propose Dan, e raccolti una mezza dozzina dei ragazzi dietro il capannone, dette loro una lezione di forza che calmò completamente l'ardore dei più. Ma Emil non sapeva rassegnarsi ad essere battuto da un ragazzo più giovane di lui. Aveva passato i 14 anni ed era pieno di coraggio, quindi sfidò Dan, che accettò subito, mentre gli altri si preparavano ad assistere alla lotta con vivo interesse. Nessuno seppe mai chi fosse stato l'uccellino che ne portò l'annunzio al quartier generale, ma certo si è che nel momento culminante, quando Dan ed Amy si battevano come due giovani bulldogs e gli altri li incoraggiavano con volti feroci ed eccitati, Papa Baer comparve sul ring, separò i combattenti con la sua forte mano e disse in un tono di voce che non erano abituati ad udire: «Questo non posso permetterlo. Smettete subito. E badate bene di non ricominciare. La mia è una scuola per ragazzi, non per bestie feroci. Guardate come siete conciati e vergognatevi. Mi lasci andare e lo butterò a terra di nuovo. strillava Dandy battendosi sotto la stretta. Vieni avanti, vieni avanti! Io non sono ancora battuto! Strillava di rimando Emil, che era già stato atterrato 5 volte ma non si dava per vinto. Giocano ai gladi, come si dice? All'uso dei romani, zio Fritz? Intervenne Demi con gli occhi più grandi che mai per l'entusiasmo di quel nuovo passatempo. Quelli erano dei bruti, e dopo da allora voglio sperare che abbiano progredito. Certo è che il mio capannone non dovete ridurmelo un colosseo. Chi è stato a proporre questo gioco? Dan, risposero varie voci. Non lo sapevi che è proibito? Sì, brontolò il ragazzo torvo. E allora perché hai disubbidito? Saranno tutti di pasta frolla se non sanno fare pugni. Hai mai trovato che Emil sia di pasta frolla? Non ne ha davvero l'aria. E papà Baer mise i due ragazzi uno di fronte all'altro. Dan aveva un occhio pesto e la giacchetta sbrindellata, ma la faccia di Emil colava sangue per un taglio sul labbro e un'ammaccatura sul naso, mentre un bernoccolo sulla fronte aveva già assunto il colore di una prugna matura. Ma nonostante le sue ferite, continuava a sfidare con lo sguardo l'avversario, evidentemente smanioso di riprendere la lotta. Sarebbe di prima forza se gli insegnassero, disse Dan, incapace di negare la sua lode al ragazzo che gli aveva dato molto filo da torcere. Imparerà la scherma e il pugilato a suo tempo. Per ora ritengo che possa benissimo fare a meno di esercitarsi a pestare le ossa. Ora andatevi a lavare la faccia. E tu, Dan, ricordati che se contravverrai un'altra volta alle norme fissate sarai mandato via. Questo era il nostro patto. Fa la tua parte e noi faremo la nostra. I due ragazzi se ne andarono e papà Baer, rivolte ancora alcune parole agli altri, seguì i giovani gladiatori per fasciare le loro ferite. Emil fu costretto a mettersi a letto e Dan, per una settimana, offerse uno spettacolo tutt'altro che bello. Ma quel ragazzo sfrenato non aveva alcuna intenzione di obbedire e presto violò di nuovo le regole. Un pomeriggio di sabato, essendo una parte dei ragazzi usciti a giocare all'aria aperta, Tommy propose: Si va al fiume a tagliare un bel mucchio di canne da pesca? Prendiamo Toby per portarli, così uno di noi potrà andar giù a cavallo, disse Staffi, che detestava camminare. Vuoi dire tu, naturalmente. Bene, sbrigati, poltronaccio, disse Dan. Andarono dunque al fiume e, fatta la loro provvista di canne, stavano per tornare indietro quando Demi ebbe la disgraziata idea di dire a Tommy, già montato su Toby con una lunga canna in mano: Sembri quello nella figura della corrida. Ti manca solo il panno rosso e un bel costume. Come mi piacerebbe vederne una e a te no? Disse Tommy scuotendo la sua lancia. Facciamola. Eccola nel prato la vecchia latteronzola. Addosso, Tom, falla correre! Propose Dan in vena di birichinate. No, non lo fare, cominciò Demi, che aveva poca fiducia nelle proposte di Dan. E perché no, benedetto guastafeste? Chiese Dan. Non credo che lo zio Fritz sarebbe contento. Ha forse proibito di fare le corride? No, non credo, ammise Demi. E allora chiudi il becco. Avanti, Tom, ed eccoti un cencio rosso da sventolare davanti a quella vecchia bestia. Io ti aiuterò a eccitarla. E Dan scavalcò il muro, entusiasta del nuovo gioco. Gli altri lo seguirono come un branco di pecore e lo stesso Demi, seduto sulla staccionata, si dispose a osservare il gioco con interesse. La povera Latteronzola non era troppo di buon umore perché da poco le avevano portato via il suo vitellino e non sapeva darsene pace. Considerava quindi tutto il genere umano come suo nemico e non saprei davvero darle torto. Per cui, quando il toreador le arrivò vicino scalpitando col fazzoletto rosso sventolante all'estremità della lunga lancia, essa alzò il capo e lanciò un muu molto espressivo. Tommy continuò ad avanzare impavido contro di lei, assecondato da Toby che riconosceva una vecchia amica. Ma quando la lancia le si abbatté sulla schiena con un forte schiocco, tanto la mucca che l'asino furono sorpresi e disgustati. Toby indietreggiò con un raglio di protesta e la Teronzola abbassò le corna molto incollerita. Avanti, Tom, ora è in furia e lavorerà splendidamente, gridò Dan, sopraggiungendo con un'altra canna mentre Jack e Ned seguivano il suo esempio. Vedendosi in tal modo assediata e trattata con così poco riguardo, la Teronzola trottorellò intorno al campo, sempre più disorientata ed eccitata, perché da qualunque parte si voltasse trovava un terribile ragazzo che urlando brandiva una nuova specie di frusta per niente simpatica. Per loro era un gran divertimento, ma era una gran pena per lei, finché, persa la pazienza, Mutò registro nel modo più inaspettato. Girò tutt'a un tratto su se stessa e si lanciò contro il suo vecchio amico Toby, la cui condotta l'aveva crudelmente offesa. Il povero Toby, che non era affatto svelto, indietreggiando a precipizio, inciampò in una pietra e cavallo e toreador caddero ignominiosamente in un fascio, mentre l'attonita Latteronzola, spiccato un salto sorprendente al di sopra del muretto, si allontanava con un galoppo furioso giù per la strada. «Acchiappatela! Fermatela! Riportatela indietro! Correte, ragazzi, correte!» urlava Dan, precipitandosi all'inseguimento perché era la mucca prediletta di Papa Bear, di razza Alderney, e se le fosse successo qualcosa temeva che se la sarebbe vista brutta. Ma quanto correre a perdifiato e strillare e ansare prima di riprenderla! Le canne da pesca rimasero abbandonate. Toby ci rimise quasi le gambe e tutti erano rossi, scalmanati e spaventati. Trovarono finalmente la povera bestia in un giardino dove si era rifugiata, sfinita per la lunga corsa. Fattosi prestare una corda per cavezza, Dan la ricondusse a casa, seguito da una schiera di giovincelli molto preoccupati perché la mucca era in uno stato pietoso. Zoppicava, essendosi sforzata una spalla nel salto, aveva il terrore dipinto negli occhi e il mantello lucido era bagnato e infangato. «Questa volta le sentirai, Dan», disse Tommy mentre guidava l'asinello senza fiato accanto alla maltrattata mucca. «Te le sentirai anche tu perché mi hai aiutato». «L'abbiamo fatto tutti meno Demi», riconobbe Jack. «Ma è stato lui a mettercelo in testa», ribatté Ned. «Ve l'avevo detto di non farlo», disse Demi, e gli altri lo ammisero, tranne Staffy che sperava che il castigo ricadesse sulla testa di un solo colpevole. Dan si limitò a dire: «Ma non ve la prendete per me». Ma non se ne dimenticò mai, pur continuando a indurli a fare delle birichinate appena gliene veniva la tentazione. Quando Papà Bear vide la mucca e sentì come erano andate le cose, disse poche parole, temendo evidentemente di dire troppo nel primo impeto dell'irritazione. La povera Latteronzola fu sistemata con ogni cura nella sua stalla e i ragazzi rimandati nelle loro stanze fino all'ora di cena. In quella sosta ebbero tutto il tempo di ripensarci su, incerti sul castigo che avrebbero subito e cercando di immaginare dove sarebbe andato a finire Dan. Questi fischiettava allegramente nella sua camera, per far credere che non gliene importava nulla. Ma mentre attendeva di conoscere il suo destino, il desiderio di restare a Plumfield diveniva sempre più forte, quanto più ricordava il benessere e la bontà che vi aveva conosciuti e la durezza e l'indifferenza incontrati altrove. Sapeva che lì cercavano di fargli del bene, e in fondo al cuore ne era grato, ma la vita aspra l'aveva reso rozzo, insensibile, sospettoso e caparbio. Odiava ogni forma di costrizione, lottandovi contro come un animale indomito, anche quando sapeva che era dettata da una buona intenzione, e sentiva confusamente che gliene sarebbe venuto del bene. Era deciso a tornare in balia della corrente, a sbattersi per la città come aveva fatto quasi per tutta la vita, prospettiva che gli faceva corrugare la fronte guardandosi in giro per la comoda cameretta con un'espressione così triste da commuovere un cuore ben più duro di quello di Papà Bear, se lo avesse visto. Ma quell'espressione svanì subito quando il buon maestro entrò nella stanza e gli disse col suo solito tono grave: «Ho saputo tutto, Dan, e sebbene tu abbia di nuovo violato le regole, voglio fare ancora un tentativo per contentare Mamma Bear». Dan arrossì fino ai capelli a quella inattesa sospensione della condanna, ma si limitò a dire, nel solito modo sgarbato: «Non sapevo che ci fosse un regolamento per le corride». «Beh, non avevo mai supposto che ce ne sarebbero a Plumfield, e quindi non ho fissato regole in proposito», rispose Papà Bear, sorridendo suo malgrado della scusa trovata dal ragazzo. Poi aggiunse gravemente: «Ma una delle prime e delle più importanti fra le nostre poche leggi è la bontà verso ogni animale. Io desidero che tutti, bestie e cristiani, siano felici qui, che ci amino, abbiano fiducia in noi e ci servano come noi cerchiamo di fare dal canto nostro, fedelmente e volentieri. Ho spesso osservato che tu eri più buono degli altri ragazzi con gli animali, e questo lato del tuo carattere piaceva molto a Mamma Bear, perché pensava che fosse una prova di buon cuore. Ma ci hai delusi e ce ne rincresce. Speravamo proprio di fare di te uno dei nostri. Dobbiamo tentare di nuovo?» Dan aveva tenuto gli occhi bassi, rigirando nervosamente fra le mani un pezzetto di legno che scortecciava quando era entrato lì il signor Bear. Ma al sentire quella domanda fatta con voce affettuosa, alzò vivacemente il capo e rispose in un tono più rispettoso di quanto fosse solito usare. Oh sì, per favore. Benissimo, allora, non parliamone più. Ma domani tanto tu che i tuoi compagni resterete a casa, invece di venire a spasso, e dovrete tutti prender cura della povera Latteronzola finché non sia rimessa. Va bene. Ora scendi a cena e fa del tuo meglio, figliuolo mio, più per te che per noi. Poi papà Baer gli strinse la mano e Dandi scese nella stanza da pranzo più domato da quella bontà di quanto lo sarebbe stato dalle frustate caldamente raccomandate da Asia. Cercò di star buono per qualche tempo, ma non essendovi abituato, presto si stancò e tornò da capo. Papà Baer dovette un giorno assentarsi per affari e i ragazzi ebbero vacanza. Cedettero quindi dentro a giocare fino all'ora di andare a letto, poi quasi tutti rientrarono e si addormentarono come ghiri. Dan però stava maturando un'idea e la confidò a Nat appena si trovarono soli. «Guarda qui!» e trasse di sotto il letto una bottiglia, un sigaro e un mazzo di carte. «Me la voglio spassare un po', come facevo con gli amici in città. Qui c'è della birra che ho presa da quel vecchio della stazione, insieme con questo sigaro. Pagherai tu questa roba o la pagherà Tommy, che ha sempre un mucchio di soldi, mentre io non ho un centesimo. Ora lo vado a chiamare, anzi no, vaci tu, che a te non badano». «Ma loro non sarebbero contenti», cominciava Nat. «Mica lo sapranno. Papà Baer non c'è e la mamma è occupata con Teddy, che ha l'angina o qualcosa di simile, e non può lasciarlo. Non staremo alzati fino a tardi e non faremo rumore. E allora che male c'è?» «Asia si accorgerà se teniamo acceso il lume per un pezzo. Se ne accorge sempre. No, ho qui la lanterna cieca che non fa molta luce e potremo chiuderla in fretta se sentiremo arrivare qualcuno». Quest'idea colpì Nat come una bella trovata che dava un'aria romantica alla cosa. Si avviò per andare a chiamare Tommy, ma fece di nuovo capolino per dire: «Anche Demi, vero? No, il diacono ti farebbe gli occhiacci e ti regalerebbe un predicozzo se tu glielo dicessi. A quest'ora dorme di certo. Dillo solo a Tom e torna subito». Nat obbedì e un minuto dopo era di ritorno con Tommy, mezzo vestito, insonnolito e con la testa confusa, ma sempre pronto a divertirsi secondo il suo solito. «Ora state quieti e io vi insegnerò un gioco di prim'ordine chiamato poker», disse Dan. Quando i tre festaioli si furono seduti attorno alla tavola sulla quale stavano la bottiglia, il sigaro e le carte. «Prima faremo una bevuta, poi una fumatina e infine giocheremo. Così fanno gli uomini ed è una cosa divertentissima». La birra circolò in un boccale. E tutti e tre vi bagnarono le labbra, sebbene a Nat e a Tommy quella roba amara non piacesse, punto. Il sigaro era anche peggio, ma non osarono dirlo e continuarono a tirar boccate finché si sentirono girar la testa e furono mezzo soffocati dal fumo. A Dan invece tutto questo garbava molto perché gli ricordava il tempo passato, quando ogni tanto, imitando i brutti tipi in mezzo ai quali era cresciuto, beveva, fumava e faceva il bravaccio come loro. E immedesimandosi nella sua parte, presto cominciò a imprecare a bassa voce, per paura che qualcuno lo sentisse. «Questo non devi farlo, è peccato dire dannazione», protestò Tommy, che fin lì lo aveva secondato. «Oh, va all'inferno, gioca invece di fare delle prediche, bestemmiare fa parte del gioco». «Io preferirei dire mille fulmini, suona meglio», interloquì Nat, molto impressionato da quelle maniere. Dan rise delle sue stupidaggini e imprecò violentemente, cercando di insegnar loro il gioco. Ma Tommy aveva un gran sonno e Nat, per la birra e per il fumo, si sentiva girare la testa, così che nessuno dei due era molto pronto ad apprendere, e il gioco andava a rilento. La stanza era mezza buia, perché la lanterna illuminava male, non potevano rider forte né muoversi troppo, perché Silas dormiva lì accanto, quindi, tutto sommato, la faccenda era tutt'altro che brillante. A metà di un giro di carte, Dan si fermò all'improvviso e gridò: «Chi c'è?» con voce spaventata mentre copriva il vetro della lanterna. Una voce tremula rispose dal buio: «Non trovo più Tommy!» E poi si sentì il rumore di due piedi nudi che si allontanavano per il corridoio che univa l'ala laterale alla parte centrale della casa. «E Demi! È andato a chiamare qualcuno! Fila a letto, Tommy, acqua in bocca!» gridò Dan, facendo sparire ogni traccia del festino e cominciando a strapparsi di dosso i vestiti, imitato da Nat. Tommy corse in camera sua e si cacciò nel letto, dove continuò a ridere finché sentì un bruciore alla mano. Scoprì allora che stringeva ancora il mozzicone del sigaro che fumava quando la festa era stata interrotta. Era quasi finito ed egli lo stava spegnendo accuratamente, ma sentì la voce della bambinaia e, temendo che, nascosto nel letto, potesse tradirlo, ve lo buttò sotto, dopo avergli dato un'ultima strizzatina, persuaso di averlo così spento del tutto. La bambinaia entrò con Demi, che rimase sbalordito vedendo la faccia rossa di Tommy riposare placidamente sul cuscino. Aurora non c'era, perché quando mi sono svegliato non l'ho potuto trovare in nessun posto, disse precipitandosi verso di lui. Che specie di bricconata hai combinato, ragazzaccio? Chiese la donna scuotendolo bonariamente, per cui l'altro aperse gli occhi e disse con l'aria più innocente del mondo: Ero andato soltanto in camera di Nat. Per dirgli una cosa, va via e lasciami in pace, ho sonno. La bambinaia rimboccò le lenzuola a Demi e uscì per fare una ricognizione, ma trovò soltanto due ragazzi che dormivano placidamente nella stanza di Dan. Sarà stato uno scherzo, pensò. E siccome non era successo nulla di male, non stette a parlarne con la signora Baer, occupata e preoccupata per il piccolo Teddy. Tommy era mezzo addormentato, e 10 minuti dopo aver detto a Demi di badare ai fatti suoi e di non domandargli nulla, arrossava beatamente, senza immaginare neppure per sogno quello che stava accadendo sotto il suo letto. Il sigaro non spento aveva continuato a bruciare lentamente sulla stuoia finché questa aveva preso fuoco e una fiammella avida si era avanzata sino alla coperta di cotone, poi alle lenzuola e infine al letto stesso. La birra aveva reso più profondo del solito il sogno di Tommy e il fumo aveva stordito Demi, così che si svegliarono solo quando il fuoco cominciò a scottarli e correvano pericolo di morire bruciati. Franz, che era rimasto alzato a studiare, uscendo dalla scuola sentì l'odore del fumo. Si precipitò su per le scale e ne vide uscire una nuvola dall'ala sinistra della casa. Senza fermarsi a chiamare qualcuno, corse nella stanza, strappò i ragazzi dal letto in fiamme e gettò sul fuoco tutta l'acqua che poté trovare. Il fuoco diminuì di intensità, ma non si spense del tutto, e i ragazzi, svegliati e trovandosi scaraventati in un corridoio freddo, cominciarono a strillare con quanto fiato avevano in gola. Subito comparve Mamma Jo e un minuto dopo Silas sbucò dalla sua stanza gridando «Al fuoco!» con una voce tale che svegliò tutta la casa. Un branco di spiritelli bianchi, dalle facce atterrite, si ammassò nel vestibolo e per un attimo tutti furono presi dal panico. Ma Mamma Baer non tardò a ritrovare la sua presenza di spirito. Ordinò alla bambinaia di occuparsi dei ragazzi ustionati, mandò Franz e Silas a prendere dei secchi e ne rovesciò l'acqua sul letto, sul tappeto e sulle tende che già bruciavano allegramente, minacciando di appiccare il fuoco alle pareti. I più dei ragazzi stavano a guardare come istupiditi, ma Dan e Emil lavoravano coraggiosamente, correndo avanti e indietro a prendere acqua dalla stanza da bagno e aiutando a strappare le tende dalle finestre. Il pericolo fu presto scongiurato e Mamma Baer, rimandati i ragazzi a letto e lasciato Silas di guardia perché l'incendio non si rinnovasse, andò con Franz a vedere come stessero le vittime del fuoco. Demi se l'era cavata con una bruciatura e un gran spavento, ma Tommy non solo aveva quasi tutti i capelli bruciati, ma una grande scottatura al braccio che quasi lo rendeva pazzo per lo spasimo. Demi fu subito curato e Franz lo portò nel suo letto dove riuscì a calmarlo e lo fece addormentare, canterellandogli una ninna nanna con la grazia e la tenerezza di una donna. La bambinaia vegliò tutta la notte il povero Tommy, cercando di alleviarne le sofferenze, mentre Mamma Baer volava da lui a Teddy con olio e bambagia, lenitivo e Scilla, divertita dall'idea che lei l'aveva sempre saputo che Tommy un giorno o l'altro avrebbe dato fuoco alla casa, come infatti era successo. La mattina dopo, al suo ritorno, papà Baer trovò una graziosa situazione. Tommy a letto, Teddy che respirava soffiando come una piccola foca. Mamma Baer addirittura esaurita, e i ragazzi così eccitati che parlavano tutti insieme mentre lo trascinavano a viva forza a vedere le rovine. Sotto la sua calma direzione tutto rientrò presto nell'ordine consueto perché ognuno si rendeva conto che egli era capace di far fronte a una dozzina di incendi e lavorarono pieni di ardore a eseguire gli incarichi che dette loro. Quella mattina non ci fu scuola. Ma nel pomeriggio i danni della camera erano già stati riparati. Gli invalidi stavano meglio ed era giunto il momento opportuno per ascoltare e giudicare i piccoli colpevoli. Nate e Tommy confessarono la parte avuta in quella scappata, sinceramente addolorati del pericolo che avevano fatto correre alla cara vecchia casa e a quanto conteneva. Ma Dan aveva ripreso la sua aria di menempipo e rifiutava di ammettere che ci fosse poi stato un gran male. Ora, se c'era una cosa che papà Bear detestava, era proprio il bere, il giocare e il bestemmiare. Aveva egli stesso rinunziato al fumo per non indurre i ragazzi in tentazione e lo addolorava e lo irritava profondamente il fatto che proprio quello col quale si era dimostrato tanto tollerante avesse approfittato della sua assenza per introdurre quelle cattive abitudini e insegnare ai suoi innocenti ragazzini a considerarle come abitudini virili, cui fosse piacevole indulgere. Egli parlò a lungo e seriamente ai ragazzi riuniti. E terminò dicendo con aria insieme decisa e addolorata: «Io credo che Tommy sia stato abbastanza punito e che la cicatrice al braccio gli ricorderà per un pezzo di astenersi da queste cose. Per Nat basta la paura che ha avuta, perché è realmente pentito e cerca in ogni modo di dimostrarmi la sua obbedienza. Ma tu, Dan, sei stato perdonato già molte volte e a nulla ti ha giovato. Io non posso lasciarti guastare i miei ragazzi col tuo cattivo esempio, né sprecare il mio tempo parlando a chi non vuol sentire. Fa quindi i tuoi addii a tutti e di' alla donna di mettere la tua roba nella mia valigetta nera». «Oh signore, dove andrà?» chiese Nat. «In un bel posto in campagna, dove mando qualche volta i ragazzi che qui non si comportano bene. Il signor Page è una brava persona e Dan vi starà benissimo se metterà la testa a partito». «E tornerà?» chiese Demi. «Questo dipenderà da lui, ma io spero di sì». Dopodiché lasciò la stanza per andare a scrivere al signor Page, e i ragazzi si affollarono attorno a Dan come si fa con chi sta per affrontare un lungo e pericoloso viaggio in regioni sconosciute. «Chissà se ci starai volentieri», cominciò Jack. «Se non mi ci trovo bene, non ci resto», rispose Dan freddamente. «E dove andrai?» chiese Nat. «Posso imbarcarmi o andare nel West, o dare un'occhiata alla California», rispose Dan con un'aria così indifferente che i ragazzi rimasero senza fiato. «Oh no, non farlo. Resta un po' di tempo col signor Page e poi torna qui», supplicò Nat, molto commosso da tutta quella faccenda. «Non mi importa un fico secco di dove vado o di quanto ci resto, e che io sia appiccato se tornerò mai qui». E dopo queste rabbiose parole se ne andò a raccogliere le cose sue che tutte gli erano state date dal signor Byer. Fu questo l'unico saluto che rivolse ai ragazzi, perché quando scese erano tutti raccolti nel capannone a discutere sulla faccenda ed egli disse a Nat di non chiamarli. La carrozzella stava davanti alla porta, quando mamma Baer venne a parlargli con un'aria così triste che egli ne fu commosso e disse a bassa voce: «Posso salutare Teddy?» «Sì, caro, va dagli un bacio, sentirà molto la mancanza del suo Danny». Nessuno vide l'espressione degli occhi di Dan quando si chinò sulla culla e il visetto del bimbo si illuminò tutto alla sua vista. Ma egli sentì mamma Baer pregare il marito: «Non potremmo metterlo alla prova ancora una volta, quel povero ragazzo, Fritz?» E lui rispondere col suo tono deciso: «Cara, non è servito a nulla, quindi lascialo andare dove non può far del male agli altri. E gli altri, invece, possono fargli del bene. Presto tornerà, te lo assicuro. È l'unico ragazzo con cui non siamo riusciti, e ne ho tanta pena perché credevo che ci fosse in lui la stoffa per farne un brav'uomo, nonostante i suoi difetti». Dan la sentì sospirare ed ebbe voglia di chiedere lui stesso di essere ancora messo alla prova, ma il suo orgoglio non glielo permise. Uscì dunque con un'espressione dura sul viso, le strinse la mano senza una parola e partì col signor Baer, lasciando Nat e la signora Joe a seguirlo con gli occhi pieni di lacrime. Pochi giorni dopo ricevettero una lettera del signor Page. Diceva che Dan si comportava bene e tutti ne furono contenti, ma, passate 3 settimane, ne giunse un'altra annunziante che era scappato e non se n'era più saputo nulla, cosa che li rattristò molto. «Forse», disse papà Baer, «avrei dovuto metterlo ancora alla prova». Ma la signora, con aria fiduciosa, gli rispose: «Non prendertela, Fritz, tornerà, ne sono sicura». I giorni però passarono senza che Dan tornasse.